Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1868. A Roma, Monti e Tognetti finiscono sulla ghigliottina. Pio IX pare fosse disponibile a un atto di clemenza, ma alla fine ha deciso per il no. E pare che sulla sua decisione abbiano pesato le pressioni della Francia di Napoleone III e quelle dei parenti delle vittime della strage alla caserma Serristori. Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, rei confessi dell'attentato alla caserma Serristori il 22 ottobre dello scorso anno, che doveva dare il via all'insurrezione a Roma, sono stati ghigliottinati il 24 novembre di questo 1868 in via dei Cerchi, nei pressi del Circo Massimo. Ad eseguire la condanna è stato Vincenzo Balducci, un tempo aiutante e ora sostituto del celebre Mastro Titta, il boia di Roma, che da poco è andato in pensione. La cosa ha creato impressione perché i due cospiratori, eroi o terroristi a seconda dei punti di vista, erano molto giovani, poco più che ventenni. Sul processo in ogni caso ha pesato non poco la ragion di Stato. Già le parole del Monsignore che ha sostenuto l'accusa lo rivelano chiaramente. Senza spirito di vendetta e invocando l'onnipotente Iddio che ci illumini le menti, che constatato il delitto di insurrezione contro il sovrano, promossa in Roma la notte del 22 ottobre 1867 e accompagnata da incendio e devastamento di edificio pubblico, nonché di molti omicidi di militari pontifici, è constatato inoltre che di tali delitti furono agenti principali con animo deliberato Giuseppe Monti, soprastante muratore, e Gaetano Tognetti, muratore, visti gli articoli 84, 260 e 275 del regolamento sui delitti e sulle pene, e in applicazione dei medesimi, chiedo, per i soprannominati, la condanna alla pena di morte e di esemplarità da eseguirsi mediante il taglio della testa. Ma c'è di più. Noi del Gazzettino abbiamo potuto avere una registrazione segreta di quanto ha detto in Camera di Consiglio il presidente del collegio giudicante e quindi dell'esito della votazione. Uno dei giudici, tra l'altro, pare si sia astenuto, anzi si sia dato assente. Ascoltiamo. Prima di procedere alla votazione, vorrei ricordare ai giudici l'importanza di questo processo. In un momento in cui sono messi in discussione l'autorità del Papa e della stessa religione, i ribelli, gli assassini, i sicari, quelli che attentano alla sicurezza del trono e dell'altare, sono già celebrati martiri da parte di coloro che negano la legittimità del potere temporale. Ora, ogni atto di clemenza, quindi, sia pure ispirato ai più alti principi della cristiana carità, si potrebbe facilmente interpretare come una conferma di questa sciagurata opinione. 11 sì su 11 presenti. Il Tribunale Supremo della Sacra Consulta decide morte all'unanimità. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.